allora siamo riusciti con viva e vibrante soddisfazione a metterci in contatto col compagno che adesso ci parlerà della situazione in Turchia, di come questa tragedia in realtà si inserisce in un quadro politico-economico estremamente chiaro e di cui ne è una delle dirette conseguenze. Pronto? Pronto, ciao. Allora, mi dicevi che tu hai sentito la corrispondenza precedente, sì, che sì, parlava un po' del clima, delle mobilitazioni. Invece con te vorremmo parlare, come dicevo, proprio di qual è la situazione politico-economica oggi in Turchia, come ci si è arrivati e come questo incidente, come l'ha chiamato Erdogan, si inserisce perfettamente all'interno di questa situazione. Sì, guarda, effettivamente gran parte adesso della gestione pubblica e politica della vicenda si sta giocando proprio su questa questione dell'incidente, per cui è molto importante per noi e per i compagni smontare questa versione delle cose. Infatti non a caso è stato lanciato da tutto il movimento questo hashtag non accident but murder, proprio per dire insomma che è stato un assassinio, così come recitava il comunicato dei sindacati turchi, che parlavano appunto non di incidente ma di omicidio di massa. Cerchiamo di capire se questa definizione omicidio di massa si attaglia perfettamente all'evento che è successo. In effetti, se si va a ricostruire la situazione dell'economia turca negli ultimi 10 anni, che ha vissuto una crescita estremamente impetuosa, si può vedere come questa crescita sia stata basata, questo in generale ed è tanto più verificato diciamo nell'industria mineraria, di estrazione del carbone eccetera, su un attacco forte ai lavoratori, sia al costo del lavoro ma soprattutto a tutto quelle spese accessorie come vengono vissute dal capitale, cioè misure di sicurezza, messa a norma degli stabilimenti, controlli, vincoli all'imprenditoria per non lasciare mano libera agli imprenditori a fare tutto quello che loro vogliono fare. Questa cosa è stato proprio ciò che Erdogan ha reso possibile per attirare capitali dall'estero eccetera, e soprattutto nel settore dell'estrazione mineraria. Questa logica di privatizzazione e di lasciare appunto mano libera ai peggiori istinti animali del capitale è stato possibile, per cui in realtà ciò che si è verificato qualche giorno fa a Soma e che proprio è notizia di queste ore, ha causato di fatto 300 morti, si parla di 299, ma ancora 3 persone sono imprigionate nella miniera e probabilmente non riusciranno a tornare. Ecco, un incidente gravissimo di 300 morti non tiene, è molto più probabile che appunto sia un omicidio, qualcosa cioè di previsto, di scientificamente preparato, di scientificamente voluto, perché è chiaro che se io creo tutte le condizioni perché a vigere sia soltanto la logica del profitto e non mi preoccupo di chi lavora in certi stabilimenti, in certe situazioni, se poi l'omicidio, l'incidente tra virgolette si verifica, è difficile che sia questo evento che rompe nella vita di una persona come uno immagina l'incidente, è molto più probabile che sia un costo tra i tanti delle voci che il capitale ogni tanto deve pagare, con un poco di protesta pubblica, ma è sostanzialmente messo nel conto, così come era messo nel conto non a caso l'incidente sempre tra virgolette della ThyssenKrupp in Italia. Sappiamo benissimo che anche là si era deciso scientificamente di tagliare sulle spese, sui costi eccetera, quindi è molto importante per noi smascherare questa questione dell'incidente, perché in realtà tutto ciò che ha fatto il governo Erdogan negli ultimi 10 anni va nella direzione di rendere sempre più possibili queste cose, perché va nella direzione di rendere sempre più facile il processo di accumulazione dei capitali, e il processo di accumulazione dei capitali si fa sempre, dovunque, in qualsiasi paese, in qualsiasi momento della storia, con questa logica. Quindi su questo noi dobbiamo essere assolutamente fermi a ribattere che qua la responsabilità è dei padroni a tutti i livelli, dal livello dei gestori di questa miniera, dei gestori privati, perché la miniera era stata privatizzata nel corso di un processo di privatizzazioni voluto da Erdogan, che ha investito la Turchia negli ultimi 10 anni. I gestori, i dirigenti di questa miniera erano strettamente legati a Erdogan, fanno parte del suo entourage, rastrellavano voti e controllavano, diciamo così, per conto di Erdogan quel territorio. E questo ha fatto sì che in Turchia si creasse, diciamo, una situazione assurda per cui è il paese con più morti sul lavoro d'Europa. Non si riesce nemmeno ad avere delle statistiche precise. Stime dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro danno intorno ai 7-8 morti giornalieri sul lavoro in Turchia, quindi cifre veramente clamorose. E quindi questo non è assolutamente qualcosa di imprevisto, ma qualcosa che tutti sapevano che sarebbe successo prima o poi. Ecco, diciamo, questo è il dato strutturale che viene fuori, appunto, che questi incidenti, ovvero questa continua mortalità sul lavoro, e immaginiamo anche malattie, infortuni, insomma, senza contarli, è un dato strutturale organico a questa, diciamo, politica che tu, a cui tu accennavi. Ecco, qualcosa di più su questa politica, cioè, per capire, è chiaro che, insomma, l'abbiamo visto anche da noi e un po' in tutto il mondo, i processi di privatizzazione portano a questo, ovvero a risparmio sui costi del lavoro complessivamente parlando, sia salariali diretti che indiretti, sugli oneri accessori cosiddetti. Bene, e quali sono, secondo te, insomma, i punti di convergenza tra interessi di capitale internazionale e interessi locali? Chiaramente Erdogan è quello che simbolicamente li rappresenta di più, insomma, no? Ne fa la sintesi, ma per capire meglio, insomma, cosa c'è di potente in Turchia, il settore, quali settori sono potenti in Turchia come industrie locali, come capitali locali, e quali gli apporti di carattere internazionale, se il fondo monetario oppure capitali privati? Certo, no, questa è una domanda, diciamo, molto, molto intelligente, perché in realtà è esattamente su questo che si tiene il potere di Erdogan. Cioè, Erdogan, se uno andava a leggere gli editoriali, per esempio, del Sole 24 Ore, del Financial Times, su questa situazione, ci sono critiche estremamente pesanti a Erdogan, e questo onestamente ci dovrebbe far pensare, perché com'è possibile che i giornali del capitale nostrano oppure del capitale internazionale attacchino, diciamo, qualcuno che è stato il loro garante per tanti anni, e così come simpatizzassero di fatto con molte proteste degli anni passati, cioè improvvisamente sono diventati sensibili ai lavoratori, non crediamo, anche perché anche qua ogni giorno muoiono lavoratori sul posto di lavoro e non mi sembra che il Sole 24 Ore lanci campagne. Il punto è esattamente questo, cioè Erdogan da un lato è stato, come dire, colui che ha permesso, attraverso una serie di norme, implementando tutto il programma del Fondo Monetario Internazionale, il fatto che capitali esteri internazionali arrivassero in Turchia e trovassero una situazione estremamente favorevole. C'è un sito molto bello del Ministero dell'Economia turca che ti invita ad investire in Turchia e ti mostra tutta una serie di tabelle, andando fierissimi del fatto che in Turchia è il posto dove c'è la settimana lavorativa più lunga d'Europa, parliamo di 53 ore in media, quindi molto spesso si fa ben oltre le 53 ore, ci sono dei salari veramente ridicoli, perché parliamo del fatto che molti lavoratori guadagnano poco più di 300 euro e comunque nel comparto, diciamo, industriale, che è quello forte, diciamo, su cui si produce il 23,5% del PIL turco, quindi insomma un contributo di gran lunga maggiore rispetto ad altri paesi pur industrializzati europei come l'Italia, la Germania, eccetera eccetera. Insomma, parliamo che in questo comparto qui gli stipendi non vanno mai oltre i 400 euro, quindi condizioni, diciamo, estremamente favorevoli di profittabilità. Quindi il capitale internazionale di questo se ne è giovato, non dimentichiamoci che ci sono anche importanti aziende italiane che hanno investito, che hanno delocalizzato in Turchia. Chiunque segua le questioni del lavoro qui sa che il problema per molti lavoratori è stato che le aziende si spostavano in Turchia perché potevano trovare condizioni di profittabilità maggiori. Erdogan è stato il garante di tutto questo. Contemporaneamente, però, il suo consenso sociale si è costruito intorno a reti di piccola e media imprenditoria, di fatto di un intero strato di popolazione, vengono chiamate le tigri anatoliche, no? Perché l'origine di Erdogan è proprio l'Anatolia, cioè di uno strato, insomma, di soggetti che sono stati messi al lavoro, a cui sono state date responsabilità non soltanto di governo, ma proprio di piccola e media imprenditoria attraverso un sistema di subappalti. Infatti la cosa interessante, se uno riesce a trovare qualcosa di interessante in questa tragedia, e purtroppo lo dobbiamo trovare, perché il nostro compito è anche riflettere, capire e poi andare a incidere politicamente, quindi non soltanto cedere al dolore del lutto. È che diciamo, in questa miniera lavorava esattamente, la miniera aveva un profilo, diciamo così, internazionale in termini di produzione, perché lavorava sul mercato dell'export, faceva guadagni clamorosi eccetera, ma dentro ci lavoravano tantissime aziende in subappalto che erano in realtà affidate diciamo un sistema di gestione locale e clientelare. Quindi la cosa estremamente interessante è che Erdogan è il punto di saldatura, diciamo, fra l'interesse chiaramente del capitale internazionale, ma anche una pretesa, diciamo così, di tipo nazionalista, che quindi spesso va a contrastare, diciamo, con quelle che sono le aspirazioni del capitale internazionale, che vorrebbe tenere il paese totalmente soggiogato, perché ha fatto crescere diciamo una classe capitalista locale impegnata soprattutto sul boom del settore edilizio, impegnata soprattutto su questo sistema appunto di piccola media imprenditoria, dove chiaramente, esattamente come la piccola media imprenditoria italiana, possiamo immaginare i diritti, diciamo, dei lavoratori sono estremamente complessi, perché sono reti familiari, amicali, dove non è possibile fare il sindacato. A me piace ricordare, diciamo, che proprio nel settore dell'estrazione mineraria e dell'industria non è possibile scioperare, cioè per legge in Turchia, questo spiega perché la difficoltà dei lavoratori di esercitare, diciamo, un controllo sul proprio posto di lavoro, per legge in Turchia, dopo il referendum costituzionale voluto da Erdogan nel 2010, non è possibile scioperare nel settore che viene definito strategico, quella dell'estrazione del carbone è definito settore strategico, per cui è estremamente ostacolata, diciamo, anche la sindacalizzazione dei lavoratori. Di fatto i sindacati presenti hanno, diciamo, mantengono il controllo soltanto di 3 milioni di persone su 23 milioni di lavoratori, quindi insomma parliamo di un tasso di sindacalizzazione molto basso, che chiaramente rende molto appetibile anche per questo il paese. Di conseguenza, diciamo, c'è il problema materiale per i lavoratori di riuscire, diciamo così, a organizzarsi, a ottenere migliori condizioni di lavoro. Tra l'altro i lavoratori di questa miniera l'avevano fatto, a testimonianza che per quanto sia molto difficile, poi quando ci sono delle esigenze materiali, tanto che avevano messo in atto delle proteste per richiedere, diciamo, maggiori controlli sulla sicurezza. I controlli erano anche arrivati, però qual è la cosa bella, tra virgolette, è che questi controlli sono tutti organizzati. Di fatto c'è un sistema di gestione tra le committenze diciamo così internazionali, gli istituti governativi e il piccolo padrone locale, diciamo, che spesso appunto ha una funzione anche di raccoglitore di voti per Erdogan, che fa sì che ci sia una saldatura degli interessi che rende di fatto inutili i controlli, perché sono preventivamente avvisati. Se uno poi va a vedere coscientemente la cosa ha messo in campo il governo Erdogan, vede che appunto in tutte le riforme che ha implementato in materia economica c'è diciamo la possibilità di sbarazzarsi dei controlli. Cioè di fatto oggi per aprire un'impresa in Turchia bastano una serie di notifiche, cioè non c'è bisogno, non deve venire qualcuno a controllarti, se tu che autocertifichi che hai fatto determinate cose. Quando poi viene il controllo è organizzato, quindi io ti faccio trovare quelle due o tre cose a posto. Cioè sono una serie di processi materiali che poi determinano però che queste situazioni accadano. Quindi il problema, diciamo così, di Erdogan è che, e se anche può apparire inviso, diciamo, a una certa coscienza democratica che i padroni poi sanno avere soltanto sulle questioni internazionali dai loro giornali, poi in realtà se uno va a vedere meglio un sistema di convenienze molto stretto che tiene Erdogan, diciamo, attaccato al capitale internazionale, e in più di fondo ovviamente il suo potere, perché va detto che le elezioni amministrative che ci sono state recentemente sono state ancora una volta vinte da questo apparato di potere, fonda il suo potere sul fatto che c'è tutta questa componente di borghesia, di nuovo ceto medio, che ha fatto i soldi in sostanza sulla messa al lavoro di milioni di persone del proletariato turco, che purtroppo stenta ancora a trovare forme di composizione politica complessive, perché che ci siano alti livelli di mobilitazione, che ci siano tanti compagni, diciamo, anche radicali, anche decisi a spendersi, lo abbiamo visto in questi anni, le mobilitazioni costiere, le proteste sono state tantissime, però certo si scontra una difficoltà a tenere diciamo così un livello, a imporsi sul livello politico più ampio. Senti, per diciamo, da quello che tu hai descritto adesso, volendo fare una sintesi e anche con un occhio alla alla nostra situazione interna prossima ventura, in sostanza si può dire che l'operato di Erdogan è stato quello, e della sua classe dirigente ovviamente, è stato quello di proprio deregolamentare al massimo le condizioni anche normative e legislative del lavoro, e quindi di sostanzialmente offrire poi al capitale internazionale la maggiore ricchezza del paese, oltre alle sue ricchezze naturali parziali, insomma, come il carbone. Ma sostanzialmente dice: guarda, vieni qui che io ti offro una manodopera docilizzata e comunque a basso costo. Docilizzata perché la controllo in tutti i modi, e a basso costo perché ho ridotto qualsiasi tipo di garanzia. Su questo l'attrazione del capitale internazionale è chiara, e su questo probabilmente poi, come descrivevi tu, le ramificazioni amicali del potere di Erdogan hanno consentito la crescita di questo, tra virgolette, sottobosco di media piccola borghesia che trova nella funzione degli appalti e nei servizi accessori al grande capitale, insomma, la sua ragion d'essere. Questo in prospettiva è quello che potrebbe accadere anche da noi, insomma, se pensiamo al Job Act, per esempio, no? Assolutamente sì. E infatti io mi permetterei un attimo di dilungarmi due secondi su noi, perché se, purtroppo, diciamo, noi, se vogliamo essere veramente solidali con il popolo turco e con il proletariato che sta pagando duramente questi sistemi di riforma, e io onestamente penso che noi dobbiamo sentire questi 300 morti come 300 morti nostri, cioè al di là di, diciamo, di ogni retorica, se noi abbiamo un'idea ben fissa in testa che la nostra classe è qualcosa di internazionale, questi 300 morti sono morti nostri. Se noi vogliamo onorare il loro sacrificio e arrabbiarci e protestare per quest'altra ennesima morte che va diciamo a mietere vittime nelle file della nostra classe, noi dobbiamo cercare di capire come contrastarla. Il presidio di solidarietà, altre iniziative sono cose importanti, ma non ci bastano. Cioè noi dobbiamo contrastare questi processi che stanno accadendo anche qui e ora, e rafforzare, diciamo, la nostra sezione di classe qui in Italia. Cioè il proletariato italiano è l'unico modo in cui noi possiamo giustamente onorare, diciamo, questo sacrificio. Allora io qua direi due o tre cose giuste, perché cosa ci segnala il caso turco? Innanzitutto che in un regime di capitalismo la crescita, e crescita ce n'è stata in Turchia, perché ancora nel 2013 il PIL si attesta più o meno al 3,5, si prevede il 3,8 per il 2014, e l'economia non accenna a diminuire. Fino al 2017 si prevedono ancora tassi da 4% in su. Il tasso di crescita del PIL è direttamente tasso del nostro benessere? Assolutamente no. Cioè quando si parla di crescita, e se ne sta parlando oramai tanto in questi anni, per uscire dalla crisi, più crescita per uscire dalla crisi, eccetera eccetera, non si parla del nostro benessere, non si parla di condizioni di lavoro migliori, non si parla diciamo della possibilità di poter spendere. Diciamo che il PIL è più paragonabile, o perlomeno proporzionale, al nostro tasso di sfruttamento. Esattamente, è esattamente questo. Per cui, siccome dobbiamo stare attenti, perché chiaramente molti in ranking che sta parlando di uscita dalla crisi, di un PIL che finalmente torna in positivo, uno, addirittura 1,5, ma può essere anche che questa cosa ci sarà. Cioè nel momento in cui ho creato condizioni di profittabilità tali, io di fatto precarizzato il mondo del lavoro, ammazzato, diciamo, il costo del lavoro a 700-800 euro eccetera, può essere che io riuscirò ad attrarre dei capitali dall'estero. Di fatto delle imprese italiane che erano andate a lavorare fuori stanno già tornando, perché oramai la situazione è diventata conveniente anche qui. Cioè non è questo il punto è a che condizioni ci sarà quella, esatto, quella poi misera e stentata crescita, cosa peserà su di noi. Quindi innanzitutto dobbiamo appunto uscire da questa dicotomia che spesso anche i movimenti hanno introiettato tra crescita e austerity. Cioè il problema è che noi abbiamo sia la crescita che l'austerity, perché il problema è tanto l'austerity e la crescita, è la, come dire, l'austerity nostra e la crescita, e la crescita dei loro profitti. Poi un'altra cosa importante che io andrei a sottolineare: in questi giorni Renzi ha parlato di riforma del terzo settore, di implementazione del servizio civile, di una lega di giovani a difesa della patria, con questi termini, no? Cosa si nasconde dietro? Un enorme, un regalo a queste associazioni cooperative del terzo settore, che per la maggior parte in realtà sono di matrice cristiano-cattolica, sono gestite e legate a Comunione e Liberazione. Di fatto, dietro questo gigantesco, diciamo, processo di dismissione del welfare pubblico per poi appaltare questi servizi a tutta una serie di cooperative, eccetera, sta dietro un progetto di governo ben più ampio. Non è soltanto la dismissione del pubblico, che è già una cosa grave che ci deve riguardare, non è soltanto un meccanismo di privatizzazione che regala ai privati, è anche un meccanismo che regala la gestione del consenso e di creazione del consenso sul territorio a una serie di reti legate, imperniate intorno alla Chiesa. So che questa cosa magari a qualcuno può apparire un po' esagerata, ma è esattamente quello che ha fatto Erdogan in Turchia. Cioè, parte del potere di Erdogan, del consenso sociale che comunque riesce a produrre, è legato a tutto il sistema, all'apparato islamico di cura, di elargizione attraverso mense per i poveri, insomma tutto questo meccanismo, diciamo, che tiene insieme l'ordine, un ordine sociale che altrimenti si andrebbe subito a disgregare per le tensioni economiche a cui è sottoposto, lo tengono assieme attraverso la leva ideologica da un lato, ma anche materiale, diciamo, di assistenza sociale, eccetera. È la stessa cosa che in parte si sta facendo qui. Noi siamo un paese, insomma, in cui dentro c'è il Vaticano, c'è Papa Francesco che ci viene pompato ogni giorno sui giornali, in cui la Chiesa Cattolica è una struttura estremamente organizzata e ramificata, e per dirne una, proprio ieri è uscito fuori lo scandalo che la cooperativa Misericordia, gestita da un prete diciamo a Crotone, prendeva 28 milioni di euro all'anno, di cui poi questi soldi nel pocket money materialmente agli immigrati non arrivavano mai. Questo è soltanto un modello in cui si sta ristrutturando tutto il sistema di welfare che punta a costruire consenso, e il governo Renzi, è esattamente questo, il crocevia, il punto di accordo fra una serie di poteri che nel paese sono estremamente radicati, le cooperative da un lato, la Chiesa dall'altro, ovviamente il grande capitale dall'altro. Quindi questo ci deve accendere una spia, perché dietro cose che sembrano sulle prime poco interessanti, come la riforma del terzo settore, eccetera, c'è un processo, diciamo, in atto molto simile a quello che sta accadendo in Turchia. E poi, ultima cosa, se mi consenti, tutta la questione dell'accordo della rappresentanza che si sta consumando in Italia con l'espulsione dei sindacati conflittuali fuori, diciamo, dai posti di lavoro, perché se firmi il contratto poi ti precludi la possibilità di fare agitazione, e parla solo chi firma il contratto. In sostanza questo è l'accordo della rappresentanza, un modello che già abbiamo visto in atto alla Fiat di Marchionne. Questa cosa qua è già presente in Turchia ed è ciò che ha legato le mani e ha reso impossibile la crescita dei sindacati, ed è su questa cosa qui che si gioca la possibilità di riattivare la crescita. Cioè, quando io avrò una forza lavoro completamente compatibilizzata, sia perché pesa su di lei il richiamo, no, il ricatto della fame, il fatto di dover andare a lavorare e quindi accetto qualsiasi condizione, sia perché pure quando entro io non riesco a organizzarmi perché ho forme contrattuali sempre più precarie e non ho nessuna sponda, diciamo, di tipo organizzativo. Quindi se noi volessimo veramente onorare, diciamo, il sacrificio dei nostri compagni morti in Turchia, noi dovremmo da subito cominciare una lotta contro il Jobs Act, questa grande forma, diciamo, di precarizzazione della flessibilità in entrata, ma anche contro la legge delega che stanno preparando, che va a colpire la flessibilità in uscita. Quindi la riforma degli ammortizzatori sociali renderanno sempre più facile i licenziamenti, esattamente come lo sono in Turchia. Cioè, io ti do un'indennità calcolata in base alla tua insanità e poi te ne vai a fanculo, non puoi pretendere diciamo nient'altro. Questa cosa qui la stanno preparando in Italia oggi e va combattuta, perché rischia di riportarci a quelle condizioni che noi vediamo oggi in Turchia. Va combattuta questa riforma del terzo settore, va combattuto l'accordo di rappresentanza, e poi in ultimo chiaramente bisogna diciamo lanciare una grossa campagna per impedire che, diciamo, su questo terreno anche ideologico di costruzione del consenso Renzi sfondi, perché purtroppo ci sono ancora molte persone che non hanno ben chiaro, diciamo, quello che sta succedendo, che non hanno maturato un sentimento complessivo di opposizione a questo governo, perché nella confusione degli annunci gli sembra che Renzi stia facendo qualcosa. E quindi, diciamo, noi dobbiamo andare a intervenire, penso, come compagni su questo terreno. Quindi se questa tragedia ci può insegnare qualcosa, è che queste logiche di privatizzazione, di subappalti, di lavoro interinale in affitto che c'era in questa fabbrica, di poca sicurezza sul posto del lavoro, non è qualcosa che sta in un paese strano del terzo mondo. La Turchia di fatto è il sedicesimo paese, la sedicesima economia mondiale, quindi non parliamo di terzo mondo, parliamo di qualcosa che è molto vicino a noi, a poca distanza da noi, e che le stesse logiche purtroppo le stiamo implementando qui. Sì, mi sembrano tutte considerazioni molto pertinenti, a cui aggiungerei, così come riflessione per chi magari si sente un po' al di fuori, schermato da questa ondata di precarizzazione, come dicevi tu, in entrata e in uscita, e cioè pensando anche ai lavoratori a tempo indeterminato, quelli contrattualizzati regolarmente, non c'è da farsi illusioni, perché nel momento in cui abbassi il costo del lavoro in entrata e in uscita, l'effetto di trascinamento ci sarà anche sui contratti collettivi di lavoro a tempo indeterminato, cioè trascinamento verso il basso, insomma, mi sembra evidente, no? E per cui nessuno si sente al sicuro, insomma, un po' anche questo il messaggio che andrebbe un po' riproposto. Sì, e infine, visto che tu fai riferimento, penso a questo, cioè alla questione degli 80 euro, no? Sì, io esatto. Dico, rovesciamola, nel senso che, a parte che, vabbè, noi sappiamo che questi 80 euro in realtà, se mantengono la sottrazione delle detrazioni fiscali che vogliono fare, in realtà diventeranno 5, 10, 15 euro in molti casi. Io direi un'altra cosa, cioè se il governo punta con gli 80 euro a tenere buoni, perché poi di fatto così è, a tenere buoni, diciamo, il pezzo più strutturato della forza lavoro, perché si parla di 10 milioni e passa di lavoratori che dovrebbero beneficiare di questa misura, e vuol dire che forse proprio da quel pezzo lì che attendono, come dire, che si possono attendere, diciamo, molti problemi. Per cui io rovescerei anche il punto di vista, cioè se il governo punta a calmierare quel settore lì è perché sa che quel settore può essere diciamo pericoloso se si organizzasse, perché quello più strutturato è quello che lo può fare, è quello che sta nei luoghi di produzione della ricchezza. E questo vorrebbe dire che ogni lavoratore, anche strutturato e garantito, e sappiamo che non lo è per niente oggi, dovrebbe prendere consapevolezza di questo e dire: ma se il governo punta a farmi stare buono con 80 euro, vuol dire che io sono effettivamente, potrei essere effettivamente un problema, e quindi non mi accontento, diciamo, di quegli 80 euro, ma vado a fare una battaglia insieme ai miei compagni, diciamo, meno garantiti, meno tutelati, meno eccetera eccetera, per richiedere complessivamente condizioni di lavoro maggiori, migliori. D'accordo, bene, io ti ringraziamo per questo contributo, e sicuramente avremo modo di risentirci, insomma, non solo sulla Turchia ma anche su altre considerazioni. Comunque rinviamo, sì, al sito dei rinviamo al sito dei Clash City Workers, dove c'è appunto un approfondimento dell'anno scorso sulla situazione economica turca assolutamente attuale, e poi anche altri approfondimenti più recenti all'indomani di questa tragedia della miniera di Soma. Va bene? Grazie mille, grazie per tutto il lavoro che fate. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao.